Do il benvenuto ad Alice Greco, la presidente di WILDM Bologna. Ciao Alice, bentornata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Rachele, ciao a tutti. Abbiamo appena sentito la voce di Marco Rasconi alla direzione nazionale di WILDM, ma lo chiedo anche a te. Siamo arrivati al 60° anno di WILDM. Qual è il bilancio dell'associazione e come avete festeggiato, Alice? La WILDM di Bologna ha voluto festeggiare il 60° anno della WILDM nazionale insieme a tanti amici e organizzando appunto durante la settimana delle sessioni due eventi importanti che si sono svolti, uno al Caffè Belmeloro vicino alla sede della WILDM di Bologna, in cui appunto abbiamo organizzato un torneo di briscola di raccolta fondi, e un altro evento in via del Pratello al Circolo della Pace. Tra l'altro si può anche sostenere l'associazione con l'acquisto di una latta di caffè. È ancora attiva, diciamo, questo modo per sostenervi, e se sì, come si può fare? Sì, certo, anche noi di Bologna abbiamo ancora delle latte per sostenere la WILDM nazionale per il 60° anno. Ovviamente ogni latte presenta anche un volantino al cui interno viene spiegato un po' la storia di questa associazione e dei suoi 60 anni. Certo, e ti chiedo, Alice, come si può comprare? Basta venire nella sede della vostra associazione qui a Bologna, e anche quanto costa, così diamo un po' di informazioni ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Sì, la latta è possibile acquistarla tramite la nostra sede e tramite appunto la possibilità di acquistarla e riceverla anche sul sito della WILDM nazionale, e è possibile prenotarla anche al numero 051 26 60 13, e possibile basta semplicemente donare 10 euro per poterci sostenere. Perfetto Alice, io ti ringrazio per averci raccontato questo compleanno di WILDM, e ricordiamo che appunto è possibile sostenervi comprando la latta di caffè presso la vostra sede o anche ordinandola. Grazie ancora Alice. Grazie mille Rachele, e invito tutti anche a eventualmente donare per sostenere i nostri progetti anche attraverso il calendario di Varicina, Vari.Cina, che è un calendario fatto semplicemente per l'associazione di Bologna. Perfetto Alice, grazie ancora. Grazie mille.